da te. Vabbè, in tutti e due i modi. Via da te, no, fra. Allora, è tutto sì. Io dico, il bollo di sabone non c'è più venti. Ma mi difenda. Non è di provato pulimoto o pulimoto. Proprio per il vela. Capravo un po' con le vagaggia. Sai che sei fatto la gella tu? Uia, esci va, capravo, posso riposare un po' con gaggia che c'ha radio. Ma quella è il portatile. Allora, c'è prendo, Non fare passaggi lunghi lunghi. Ma già funziona bene, non c'è problema. Anche se scalda già va bene. Beh, è normale, anche il baracchino scalda. Beh, lasciami. Sì, anche questo già è caldo, ma normale, già va bene. Ma non è su, tu passa la sua radio, beh. Accendi, no, che. Claudio! Anche a me io c'ho un po' di cose. Covid, già mi sento gonfio, però c'è un miracolo un po' d'aria, però ci voglio ogni tanto, capito, un po' di ferro, di cose, di bretella. Alla mia, dai. Un po' faccio, dai. Ma ti dico che quel portato esce veramente bene. Però questa non è male, dai. È buona, cioè, cavolo. È buona come... Ma è bell'ecco, ma aspetta. È buona, sì, va bene. Adesso è senza ecco. No, metti l'ecco, è più bella. Ma che ti ha fatto quel microfono? Ma perché gracchia? Non lo so, forse mi stavo muovendo. Ehi, buh, non lo so, no. Ma è brutto. Fai la bellezza della bicicletta. Ma quando schiaccio? Ehi, quando schiacci puoi fare? Ehi, buh, devo vedere un po'. O il PTT. Io non lo sai cos'è là, non è dopo. Se no, non... non è che non mi soccupo, non è tocco di roba e quindi può capitare, capito? Non sono il tipo che mi ponga in ciaffugliappa, cioè, lo lascio sempre qui e lo devo mettere a posto, ma se c'è qualcuno che me lo fa. Sarà un casino, infatti. Non penso che sia un problema, anche lui che troppo mettere a posto. Aprirlo, aspettarlo un po' di spray, qualcosa. Siamo con un po' di GRC. Scrivi, spruzza un po' di WD-40, se non ti ripiglia. No, è buono il mughiccio, vabbè, allora lo apro uno in questi giorni. Perché, capo, che ce l'ho un po' di anni. Magari ultima pure di usarla, è capitato appena di goggia. Facile. Guarda che questa radio ce l'ho 10 anni, non è che l'ho comprata, non è che l'ho comprata ieri, no? È la radio che mi piace di più, cioè l'ho sempre tenuta bene, l'ho sempre tenuta, già va bene però. Oh cavolo, ma le cose boh, mi durano una vita, mi durano, perché io le tratto bene, difficilmente brucio la roba, perché sono un bel pignolo, un bel eccetera. Mi durano, anche i telefoni io, quei telefoni, grazie, mi durano anni, perché non ho mai fasciato. E io lo stesso, io ce l'ho quello di lavoro, lo stesso, ce l'ho anni. Guarda Forestio come sto uscendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Questo è il microfono di giù. Va bene, non c'è problema. Ehi, ma è tanto che vado a prendere la battiglia. Ma un po' la vento la si sente, però è sempre... Il beep è particolare perché non ce l'ha nessuno. Mamma mia, cavolo, non ce la guardi nessuno. Sì. Mi figurati tu. Ok, 2 minuti, arrivo subito. Vai. Beh, fai di fatto un nome o un microfono da tuo, Beh, ti sente. Secondo voce ti fa... vabbè. Secondo come lo tocco così è. Quindi ti male c'hai così... poi si chiama la... si chiama la... come ricordo il nome, la... Beh, non si può contare. Basta aspettare un po' di CDC, però il WD-40. Già ce l'ho già in deposito. Aspetti la legge, ti giochi un po' e poi magari se mi rispetti troppo glielo asciughi con un pezzo di carta, un pezzo di scotte, un sacchetto, vedrai che poi una cosa, la ferrite sarà ferrita sporca, capito? In polvere, animali? Sicuramente. Sicuramente sì. Claudio, antibiotico. Antinfiammatori, gas. Ma di minuta. Antinfiammatori devo prendere tanto. Giorno sì, giorno no, se no non riesco a fare niente. C'ho la schiena a pezzi. Lo so, ma poi prendi su della salò. Ci sono guardato la Patrizia, che te lo guardi a San Camillo, che te lo guardi a me cognato. Tu aspetta, cazzo, ci porta una lavatrice, che cazzo dicendo, cognato, una fotocopiatrice, quelle grandi, cazzo. Aspetta, cazzo, quando vengono, no, mi serve, inviare il bordo, ma c'è, cazzo. Tre piani a piedi, un cazzo di goccia, ma c'è un tre pesanti. Della metà farà buio. Sì, per non rompere la palla a nessuno, capito? Perché ha chiamato e ha detto che ha fatto via tutto. Però la roba piccola, però non la ci arrangiamo noi. Cazzo va, c'erano i bookendi, c'erano la scala aerea col pianale, mettila su questa fotocopiatrice e farà tira, no? Cazzo no, ti dico il casino che abbiamo fatto a metterla nella furgonetta, andare a scaricarla, guarda, cazzo. Dai, io voglio un cognato che è una mincia qua, una cosa allucinante, tutto sa fare lui, però lascia fare agli altri. Cavolo, la vuoi fare? Ognuno si tira su via. Poi quando uno, quando uno è forte, è giovane, si ne appute, ma quando uno non sa da sei bene, cioè, di schiena è un casino. C'erano sei monitor di computer nuovi e nuovi, ho detto mica nella furgonetta si rompono. Cazzo, aspetta, le mettiamo dentro le cassette di cartone e poi le portiamo via di corpo. No, tutto uscì lampado il furgone, nella furgonetta non c'aveva un fiorino. Tutto. Ha già fatto da via San Francesco a via di corpo, non è bene avanzato uno. Sbarrato. Tutti rotti ci sono, tutti rotti, tutti filati, tutti fasciati, tutti raffiati. Quanto potete andare piano? Mi avete avanti di culo, uno a capo ha giurito. Se te la metto, volevano lì, c'è tra una cassetta. Vabbè, domani mattina vai a Predaniella e compra sei monitor nuovi. Che problema c'è? Dammi la carta di credito. Obama, che gara. Infatti non me l'ho portato a casa, perché sono da 22, io ce l'ho da 19, sono da 22, un bel grande, capito? Un bel grande, è appena graffiato. Tutti sono rotti, sì, tutti, sono tutti da buttare via, vai a comprare i nuovi, va bene, e non me te l'hai buttato a casa. È una cosa allucinante, cazzo, più soldi c'hai, più rompe le palle, guarda, è una cosa allucinante. Io come me, vabbè, non sono neanche il cognato, quindi. Vabbè, va. Fatti così, so. Pure io ne aggiuno, ma per carità, è meglio perderlo che acquistarlo. Vabbè, lui fa cose innocenti così. Ma che se va giù è un cazzeggato, ma cazzeggato davvero. Dopo il bocciato lo racconto, ma dici. No, il cognato è un dottore, già sa i cazzi suoi, c'è un sacco di aziende, un sacco di società, un grande creditore che è stato molto in politica, capito? È stato vice sindaco a Sassari, assessore dei lavori pubblici, assessore delle manutenzioni, assessore dei servizi sociali, è stata la regione, e già uno che già si sa muovere, come ha detto. Non rimanca niente di nato, siamo una villa in via Pietronenni, allucinante. Quelle, già lo sai la via Pietronenni, no? Sono tutte le ville. Lo so con di essa, non ti preoccupare che te lo so. Da che parte però di via Pietronenni? Quella salendo lì, perché si può entrare una salendo lì dove c'è il... centro ecologico dall'altra parte dove abita Corso è vicino dove abita Sacchetti, quelli delle caldaie, no? Questa è la villa di Sacchetti, sì. Due villa dopo c'è lui, è attaccato a quella sia 400 metri quadri. Ma il figlio c'è altro, ma anche questo è un giorno, ma di nuovo lo stesso, la società che aveva prima. Poi c'era la casa di riposo lì, l'edra, quella era la sua, l'ha venduta, non mi guardi l'ha venduta, dovrebbe chiedere. 2 miliardi e 700 milioni mi sembra. No, così si sbagliando con via del Gelsomini. Anche un diario abita a Fugione che sa via. Via del Gelsomini, via delle Mimose, in chi via? Allora tu, quando sali per andare a Osio, cioè la prima che puoi entrare lì e vai dritto dove c'è la villa di Pio Fugioni. Ok. Che fa l'angolo, non lo so io le vie. Sali appena appena. L'altra che c'è proprio di fronte a quella di Pino, quella è quella di mio cognato. Sì, lo so quindi. È vicino per la villa dei Tessoni, beh, puro. Già lo so già. Tutti i poveri ci abitano, ci abita anche il mio medico, dottor Cervasi, figurati. Ci sono tutti i poveri lì. Proprio gente che non c'ha soldi, guarda. Già riconosco tutti già, ragazzi. Chi viva a metà, chi so, c'è lì ci abitava anche Roberto. Roberto, già lo conosci, Tessone, sicuro del carburante. Ma adesso è rimasta su ruota e se ne è andato dall'altra parte. È roba di Cornelius. C'è gente, un po' viziata anche io a Fittedini. Ci riconosco tutti io, tutti, perlomeno una parte di quelli sono che è vero, tutti senza macchine, so, tutti, BMW, Cayenne, Porsche, BMW, Audi, Mercedes, chi ne ha più ne metta. Vabbè, Dio se lo dica, non è coniato già c'era la burattina, cioè uno, un ragazzo che viaggia forte, mi ha vestito un sacco di quattrini, c'ha due belle società, una ha molti servizi a livello grosso, un SPA, e l'altra è una SRL che fa altre cose, ma già si ha da fare, già viaggia, già dormo, già fa gli ambienti, infatti, io ando, ci vado, non ci vado a lavorare, ne ho mesi, io ti ho lasciato la segna sulla scrivania, e tu non raga. Vabbè, ti dando una mano, va. Adesso, adesso che sei libero, cosa vuoi fare? Piano piano, una mano a chiedere dalla mano la fa l'altra. Sì, che cazzo. Già cazzo di vecchia, queste persone qua io ho visto come... Cioè, cosa tanto hanno, perché sono entrato in quelle case. Già stanno abbastanza bene. No, non mi posso lamentare, io sto scherzando. Una persona che non ha mai sgradato di niente, soprattutto la sorella, non gli ha fatto mai mancare niente. Capito, assolutamente nel modo più assoluto, non c'è nessun problema, capito? Io quando sono venuto qua, la parte che aspettava lui non l'ha neanche voluta, se no toccava dare i soldi, invece non ne ha voluto, capito? Ha regalata la sorella la parte che ha lasciato la mamma, e anche altre cose, anche la parte che ha Francesco, una parte che ha dato i soldi, la campagna di Itri, la casa di Itri, un sacco di cose, non c'è stato mai nessun problema, solo che tagengo, capito? Ci mette a fare un sacco di cose, poi tu arrangiati tu, perché hai preso appuntamento? Io non voglio di andare per dire a Olga, di andare al ghetto, di andare, allora tu vuoi che mi si manda a Punta di Gasino, perché c'è cantiere aperto, e vai tu, io non ne voglio, arrangiati, perché non mangio più tanto, io non sono andato a lavorare 2 anni prima, perché ne avevo le balle piene, ho già lavorato 40 anni, capito, non ne ho più voglia. Sono difetti che hanno le persone. Edo, comincia già la cosa, e poi... Ah, molla, arrangiati, Vabbè, lui è molto felice, già lo sa cosa facevo io, quindi non è che ho problemi a stare in cantiere, anche a dirigere, a controllare, a fare, a dare una mano, non ha più problemi. Però non ho più voglia, capito? Non ho più voglia né di guidare, né di fare, no? Non ho più voglia. La cosa mi piace è andare a prendere materiali, portarli, capito? Anche perché c'è persone abbastanza valide. Però stare lì, a me, mamma mia, guarda, non mi interessa niente. E quindi mi occupo di altro, un po' di amministrazione, contabilità, queste cose le so fare, le facevo, commissioni, ripeto, ma altre cose non me ne affrontano, non ne ho più voglia. Così, dello gozo del mio, come si dice, del mio padrone di casa. E chi è? Vanni Antena. Chi? Vanni Antena. Sicuramente si conoscono. Sicuramente si conoscono. Vabbè, lui è anche socio della San Martino, dell'acqua, perché fabbricato la San Martino è il fratello di mia socia, non so se lo sa. Gianni Simula, capito? E quello è il fratello di mia socia. È il fratello di mia socia. E quindi Tony, mio cognato, c'ha delle quote lì, capito? Già li conosco un po', io conoscevo anche quella che abitava lì in via Diaz, era la sorella di tua suocera, già li conosco un po' tutti. Beh, mi è preparato, non è tutto vero, di chi è? L'impresario di Antonio Sini, quello con niente di mia suocera, il marito della sorella di mia suocera, Maria Pasquale, morta l'anno scorso. Sì, lo so, lo so. Io è un po' carico strano, Burvetto, adesso sono parecchio che non lo... però lui l'ho visto da poco, l'ho visto. Edo, è un po' carico l'ompio, tuo marito. 92 anni c'ha il mio impresario, Antonio Sini, 92 anni, e ancora guida, c'è una C3, ogni tanto si sposta vicino, 92 anni, molte volte l'altrissimo telefono, la mattina, e poi c'è Franco che è ingegnere edile, e poi c'è l'altro che è commercialista, Angelo. Mentre la figlia, non so se l'hai conosciuta, la figlia invece abita a Bologna ed è giornalista. È giornalista. No, ma già sono tutti piazzati bene, Antonio, non c'è un problema. Assolutamente. Ma io, signor Antonio, poca conferenza, buongiorno, buonasera, non è che ho legato molto la verità. Io con mia moglie ci sono. Avevo 19 anni quando mi sono messo con mia moglie, figurati. Mi sono sposato, ci siamo sposati che avevamo appena finito la casa qua, perché tra l'altro mio cognato era presidente della Lega delle Cooperative, quindi questa è nata come cooperativa, l'ha fatta lui, diciamo. Capito? L'ha fatta lui. E quindi siamo iscritti in cooperativa, sia io, i miei suoceri, molte persone che conoscevo, eccetera. Questa è la cooperativa Giulia. Poi una volta che abbiamo finito il mutuo e tutto, sotto la cooperativa, adesso si chiama Condominio Edera, però era lui che, capito, lui era presidente della Lega delle Cooperative, cioè aveva l'ufficio in Viale Caprera. Sì, ma è tu, però anche la gente del palazzo, ma ha sempre detto che era un po' bello l'ompio, era. Mi hanno sempre detto così, mi hanno... sì. Ma poi non lo so. Io un po' da contagio, ma ne ha fatto lavori a Sassari. Cazzo, tutta via Montegrappa l'ha costruito lui. Via Montegrappa, via Bardini, lì via Armando Diaz, ehi, le case popolari che ci sono qua in via Carbonazzi. Ne ha fatto. Tantissimi lavori ci ha detto. Io ho sempre per gente sentito dire, dizia che era un po' careggio bruciatore o cioè, con gli operai, però ho sempre per sentito dire, a me, me l'hanno riferito, me l'hanno, ma non lo so. Non lo so neanche io, perché ripeto, io non è che legate molto, non è che legate molto, andavamo tutti assieme, a casa mia socia, molte domeniche, a pranzo, c'è la sorella, noi, eccetera, la cognata, però si parlava il più o meno, ma io non gli ho mai dato nessuna confidenza, lui non me ne ha mai dato, quindi assolutamente, c'era un bellissimo rapporto, però ognuno a casa sua, no? E poi l'altro impresario è Soletta, Angelo lo stesso, sempre di famiglia, perché Angelo è il cognato del fratello del mio socio, capito? Quindi, e insomma, già va bene, dice quello. E beh, l'ugari è domenica, sì. No, per di bella, se vuoi dire, se sei dormito. Sì, prendo il pezzone. No, volevo capire, Soletta chi, perché io riconosco un po'. Ma chi? Soletta. Quella, tu mi hai detto Soletta, l'impresario. Sì, Angelo, quello è il cognato del fratello della mia socia, però la San Martino. C'aveva l'ufficio lì in via Resedo, alla fine in via Resedo. Forse ho capito. Grasso, era un bel grasso prima, adesso ha dimagrito tantissimo. C'aveva un Ferrarino e uno che ne ha girato i soldi. Un bel ne ha Sassari. In affitto e l'appartamento va un bel. Parecchio. Quel barato c'è in via Dalmazia, il suo, neanche in via Bardini anche lui, in via Savoia, quello che c'è all'angolo dove c'è la farmacia, quello stesso di Angelo Soletta, la farmacia poi era affitto. Sì, ho capito chi è, ma non li conosco, sto sempre in giro io con un combo di gente. Immaginiamoci. Cosa hai detto lui? Mi si hanno da cucare, mi tutti e due. Ehi, Luca Bricicchetta. Che bello, buonasera. Ciao a tu. Ciao, tanto io da Luca qua, giù che sono i donsilli, là. Cazzo, ci vuoi lasciare l'altro, poverino. Vai, cucate, anche vai. Io non devo fare un cazzo domani. Ehi, vabbè, a cucarmi. Non vi ne è problema, i nonchi, no? Ma non desidera fare l'amore, claro, cosa cucassi? Che a tutti loro, esatto. A tutti voi. C'è uno scarico elettrostatico a tutto andare, lasciare venire anche temporale, ragazzi. Sicuramente, e pure qua adesso. Ammaraggio ci vai. Non c'è scarico, e tu lui? Ma non mi sembra. Vabbè, c'ho lo squelce chiuso. Io voglio lo squelce a bici. E anch'io sono 10:15. Mi sono qua, Lua, se vado nel divano, mi ho preso la pastiglia per le mani di schiena. E quindi mi corico, mi sdraio nel divano, boh, mi trombo. Poi mi sveglio e non dormo più. No, io non mi facendo la televisione, che se no cucarmi così non predisco. Facendo la televisione, altro dopo verso mezzanotte e mezzo. Dipende poi da cosa c'è in televisione. Come te mi viene a biocco. Chiuso tutto, mi giro e sono dormito. Io mi sveglio alla TV, cazzo, e chiudo gli occhi, boh, e mi scendo magari a mezzanotte e mezzo, l'una, perché loro non mi svegliano, non mi svegliano, già mi incazzo. Quando mi sveglio poi vado a coricarmi, a prendere sonno ci vuole altre 2 ore. Che capiscetta? E l'aria quando va a coricarsi, capito? Adesso è perché di mattina che riesco a un po' si corica, che si va a fare sì, però quando non è di apertura, per esempio, che deve fare dalle 2 alle 6, mi lascia stare lì, lui va a coricarsi e mi lascia stare lì. Ah, così è, già. Ma è meglio che, come si dice, cioè pure a me non mi, cioè, quando io mi devo alzare mi alzo e basta, cioè, ma sono io, molte volte Sara si lamenta, perché per esempio la paiotto. Allucinante. Io sono fatto così, no, poi non riesco più a dormire e metto a fare roba. Sì, ma anche io. Io sono Giacomo, sto a guardarmi la TV, fino a tardi, capito? E poi, poi già mi viene lo sonno, non è che non mi viene. Sì, adesso di mangiare mi sono riscaldato la salita. Cazzo, è vero, pure da porco vendi piatti, così, quando non riesco a dormire che mi annoio, mi piglia male. Allora mi metto a lavare, a pulire, a fare, cioè, se vado a fare la pastrice, porto la pastrice, mi piglia male, cazzo, se non so se non so un minuto fermo. Un casino, sono qua perché sto mettendo a posto un farettino solare, capito? Sto mettendo un interruttore, vabbè, tac, perfetto. E poi gli ho messo il modulo di ricarica anche tramite USB dal telefonino, dai. Un farettino solare, dai. No, questi farettini ho preso un po' di tempo fa su eBay, capito? E la notte io lo metto di giorno a caricare a sole e poi la notte lo appoggio dentro casa, allora sul mobile che ho nell'ambito, toccando basso, banda e misura, capito? E non c'è bisogno di tagli per se c'è interruttori e mica interruttori, capito? Si accende da solo, si spegne da solo. E li sto mettendo però un pulsantino perché il suo, quelli a pressione, si è rotto. E allora ho detto, beh, adesso li metto anche un modulo di ricarica USB che lo puoi caricare col caricabatterie del cellulare. Ma va con la paese da ghicchia di notti. Sicuro? Facciamo un bimbo Antonecchia. Buonasera. Come sto uscendo, bene o male? Sì. Penso di sì, grazie a Dio. Bene, sto uscendo adesso. Sono contento, meno male, grazie a Dio. Ma già andava, ma com'è? Prima era tutto po. Cremine 9. Con lo LGBT, lo sai, da Balacchi, se c'è il microfono, quindi siamo a posto. E ora. Va bene, Antonio. La grande. E ora, me lo. Ah, se non avete nessuno, sto uscendo male, tutto tendata, eccetera, eccetera. Me lo, come si deve, e sono a posto. Va bene, mi ascolti. E a voglia. Non ha. No, siamo a posto. Luca! Eia! Quindi ha aggiustato il faro? Eia, ci ti mando un video. Che sto mandando a Claudio. Altro che un buon fuorio! Appa. Adesso, ti aprirà un anno o due che c'è un microfono. Minimo ce l'hai più di 20 anni. Ma con il microfono Antonello? Non so, perché ce l'avevo anche nei 80, adesso non mi ricordo. Veramente me l'avevo rubato quello dei 80, già te lo dico neanche tu. Quindi, Elio Piuma me l'ha rubato di Salenta. Quindi a un certo punto l'ha rubato e l'ha anche venduto. Quindi a un certo punto le cose devono essere chiare. per tutti. È la batteria che c'è all'interno. Ma che ti raffa? E purtroppo è così. Cosa devo fare? Mi ha rubato e se l'ha venduto a un certo punto. Vabbè. A voi degli altri non la fregancate, ma comunque sia. Se l'ha fregato e venduto, il discorso è quello. E io non pensavo che era così la verità come pensavo, ma a un certo punto da fa culo era il microfono del chiamo direttorico del 80, era a posto, invece no, boh, fu tutto. Non ho capito come ha fatto a fottere, cioè, così monta, cosa tu hai rubato? Io l'avrei dato tu, no? Sì, io l'ho dato io, infatti da quello che mi ha fatto tornare il discorso è quello, quindi a un certo punto ho fottuto a me e anche agli altri discorsi, non ho fottuto cioè, solamente a me, già lo sai, è claro, e ha fottuto un sacco di gente, non è solamente a me, il discorso è quello. Quindi sono problemi suoi, non sono problemi miei, capito? Sono creditori suoi, non miei, a un certo punto. Non mi dà, penso, male la notte, la verità, Perché penso mi dà male la notte. Beh, si tiene il gancio della radio, non so cosa bella è quella, no? Ma non ci va bene. Vabbè, e cosa ci vuoi fare? Ragazzi, dai, io vi saluto, sono 10:30, guarda nonna, me ne vado a salone, guarda un po' di TV, statene bene, già ci aggiorniamo domani, ciao Bombolo, ciao Luca, ci aggiorniamo domani mattina, e ciao Antonio, vai, e a chiunque sia in ascolto, buonanotte a tutti. Ciao, bravo, buonanotte, ce la risentiamo, avanti Antonio. Ciao Clara, domani ci sentiamo là, non c'è problema. Avanti Lu. Cosa ti hanno fatto dare curato la radio? Non ha fregato la radio, mi ha fregato il microfono, scusa è quello, in saletta. Hai capito? No, vabbè, non è che ha fregato solamente a me, ha fregato anche un sacco di altra gente, scusa è quello. Quindi a un certo punto a recuperare la roba, cosa cazzo fai? Sei morto di fame, che cazzo devo fare io? Oh, se mi do che cazzo la roba a me, ti cudo che ci ha ammazzata, Dio mio caro. Oh, a me non c'è, io vengo, ti do il cuore, ma non me ne cura la roba, fa cosa ti cudo un bel forte. Biglio che c'ho manganello in chibi, cazzo, io da come ti faccio se mi tocchi la roba. Vabbè, qualcuno lo sai, no? Quando è morto di fame va a far culo, a un certo punto. Cosa devo stare, cazzo? Non per mille belle con lui, non esisterò. Cosa mi rovino per niente? Se la piglia in culo, a un certo punto. È morto di fame e basta, ma fa culo. Non me la fotti nulla a me. Mi ha rovinato ci ho messo un microfono, un saletta, va fa culo. Però lui c'era scritto tanto di quanto, per quanto riguarda lui. Per sempre, per 50 anni, questa storia, il discorso è quello, è l'attacco del teatro, capito? E quindi va a far culo, a un certo punto. Perché io 20 anni fa, cioè mi ricordo che avevo sentito modulare, c'era un coso così, c'aveva un microfono del genere, appunto lo si era comprato così. Sì, il microfono era mio, esatto, sì, bravo, si è arrivato. Scappa, ma ce l'avevi tu però, io mi ricordo. L'ha volata lui, hai capito? quindi dopodiché cosa ha fatto lui? Ha preso e a un certo punto è usato lui. Dopodiché, boh, non so cosa sia successo, la verità, quello che sono a fare i suoi, a me non me ne frega niente di quello che ha fatto lui. E ha avuto problemi, non so, e quindi ha venduto tutto. Ma non è giusto però. Solo una persona che non vale un cazzo. Una persona che fa queste cose. Mi dispiace. Ma una persona che non vale un cazzo. E vabbè, comunque sia. Io parlo di me, solamente di me parlo io. Il mio microfono, quello mi dispiace averlo perso, la verità. Se l'ha venduto, ma qualcuno non me ne frega niente. A un certo punto, che serve le medicine e il resto, non per altro. Beh, cosa riservo? Magari non lo sappiamo, magari già può fumare. Quello che non me l'ha fottuta. Io solo sapete che gli serve le medicine, non per altro. In tutto, perché non so io, a quanto sembra, vabbè, io te parlo io, allora gli altri, le persone che si sono fatte appresso a lui, eccetera, eccetera, quindi, a far culo, non me la foto da me dietro, sono tranquillo io, mi alzo la mattina che sono bello tranquillo, che non ho problemi di niente. Io penso che lui abbia problemi invece, al cervello. Ne ha parecchi, te lo dico io. Ne ha veramente parecchi. Quello deve dare agli altri, ma per l'altro, non a me, ma agli altri sì. Di merda. Lo sto dicendo, lui ha un sacco di problemi, lo sto dicendo io, aveva roba agli altri, non a me, cioè vabbè, quello che è il minimo, però agli altri ce l'aveva parecchi, e te lo dico io mi auguro che lui possa risolvere i problemi, se no, cosa rende? Antone, di che ti sto telefonando? Non ho capito. Detto che ti sto telefonando un attimino. E vabbè, chiamami, qual è il problema? Già sono qua. Io sono GRT, sono. Ha fatto la comunicazione. Sono qua a casa. Telefono, hai visto? Aspetta un secondo. Sì.